2024. 2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024, benvenuti o bentornati. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24. Da questa settimana inauguriamo un nuovo palinsesto del weekend, visto che il weekend inizia il venerdì sera. I nostri nuovi orari sono venerdì tra le 22 e le 23, la domenica tra le 13 e le 13.30 e naturalmente sempre in podcast, quindi i nostri ascoltatori che si abbonano gratuitamente al servizio podcast di Radio 24 e in modo particolare a 2024 hanno la possibilità di scaricare, ascoltare settimana dopo settimana la trasmissione quando preferisce, quando desidera, anche a pezzetti, 10 minuti al giorno. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook, potete partecipare alla discussione su Facebook e anche su Twitter, però laddove dovete utilizzare più di 140 caratteri oppure non volete che magari il vostro messaggio venga visto da tutti quelli che sono sulla pagina Facebook, scriveteci una bella email. In questa puntata parleremo molto della app economy, della smartphone economy, quindi nuovi servizi e nuove applicazioni che nascono attorno alle applicazioni e naturalmente attorno allo smartphone. Parleremo di parcheggi, parleremo di pagamenti digitali, ma come spesso facciamo iniziamo dalle notizie che abbiamo scelto tra le più importanti della settimana, le nostre Digital News. Digital News. Iniziamo dallo spazio, ci sono alcune notizie, direi molte notizie questa settimana, alcune buone, alcune cattive. Iniziamo da quelle buone, che riguardano anche il nostro paese, soprattutto il nostro paese e l'Europa. Ariane Space acquisterà 10 razzi Vega prodotti in Italia da ELV per un valore complessivo di 257 milioni di euro. Ricordiamo che ELV è una società pubblico-privata che ha sede a Colleferro vicino a Roma ed è partecipata al 70% da Avio, che è un'azienda italiana, e per il 30% dall'Agenzia Spaziale Italiana. Vega è un lanciatore, quindi un razzo, che può portare in orbita piccoli satelliti fino a 2,5 tonnellate. Dicevo che è stata una settimana con molte notizie, anche cattive, direi una settimana sfortunata per le attività spaziali, perché proprio oggi, quindi la settimana, si conclude con uno schianto. Si è schiantata nel deserto del Mojave in California la Spaceship 2 della Virgin Galactic, una navicella spaziale ancora sperimentale che dovrebbe porterà nei prossimi anni turisti in volo suborbitale. Virgin Galactic non è l'unica società che sta investendo nel turismo spaziale, però sicuramente quella che ha fatto più parlare di sé. E, purtroppo, sempre questa settimana, un razzo Antares della Orbital, di una società che si chiama Orbital Science, è esploso poco dopo il decollo dalla Virginia. A bordo c'era un carico di materiale scientifico e cibo per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. Digital News. Altri argomenti riguardano la stampa 3D, perché dopo averlo annunciato in primavera, HP ha mostrato la prima stampante 3D, il primo prototipo dell'azienda, che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2016. Secondo Hewlett-Packard, la tecnologia 3D Multi-Jet Fusion avrà una precisione di stampa e una velocità superiore di molto alle stampanti oggi sul mercato. Comunque il dato è interessante ed è indicativo, perché se entra anche HP, che è il leader mondiale della stampa, sia getto d'inchiostro che laser, se entra in questo mercato, quindi nella stampa 3D, vuol dire che qualcosa si sta muovendo e comincerà presto ad essere un mercato di massa. Digital News. V3C, la commissione che supervisiona gli standard globali dei siti web, ha standardizzato l'HTML5, l'evoluzione del linguaggio con cui vengono costruiti i siti web. Grazie ad HTML5, che già viene utilizzato da qualche tempo, avremo siti internet più dinamici e interattivi e anche siti che potranno essere visualizzati su smartphone in modo simile alle applicazioni. Una cosa che diciamo spesso è che le applicazioni ci hanno costretto a silos verticali e legati ai sistemi operativi, quindi devo scaricare un'app per Android, una per iOS e una per Windows Phone, così per altri sistemi operativi, mentre il web è sempre stato stato ed è ancora oggi l'unica vera piattaforma interoperabile, indipendentemente dal sistema operativo che abbiamo, un sito web si visualizza. Questa è un po' la logica con cui ci saranno questi mini siti che funzioneranno come le applicazioni e saranno quindi interoperabili. Uno sviluppa un mini sito in HTML5, lo potrà vedere su tutti gli smartphone. Digital News. A proposito di smartphone, sui telefoni moderni ormai è normale avere a disposizione mappe che calcolano il percorso stradale tenendo conto anche del traffico. Ci sono sensori in tutto il mondo, in tutte le città, che raccolgono dati sul traffico, e questi dati vengono utilizzati anche da queste applicazioni sul traffico sullo smartphone. Allora, la stessa cosa esiste da qualche anno anche sui navigatori più classici, tipo il TomTom. Allora, ora l'azienda più famosa al mondo per i navigatori, appunto TomTom, ha annunciato una nuova funzionalità che si basa anche sulle condizioni meteo. Quindi se in un certo luogo piove, c'è neve, beh, questo viene tenuto in considerazione dal sistema e può essere un suggerimento al percorso. Quindi uno magari evita quella strada perché il sistema gli dice di evitare quella strada. Digital News. Una novità che arriva da Microsoft, che offrirà spazio cloud illimitato su OneDrive per tutti gli utenti Office 365, sia home che personal e anche university. L'upgrade per gli utenti business invece è previsto nel 2005. Digital News. Un'ultima notizia riguarda la tecnologia plasma, perché LG ha annunciato che a fine novembre interromperà la produzione dei TV al plasma. L'annuncio arriva dopo quelli fatti negli ultimi mesi anche da Panasonic e Samsung, quindi di fatto tutti i più grandi produttori di televisori hanno smesso questa tecnologia. A questo punto l'attesa è tutta per OLED a prezzi più popolari rispetto a quelli di oggi, visto che attualmente l'unica tecnologia che può replicare la qualità visiva del plasma è appunto OLED. Nessun LCD è ancora arrivato alla qualità visiva del plasma, quindi se potete mettere le mani sugli ultimi plasma, quella potrebbe essere una buona idea. Poco fa mi è scappato un 2005, naturalmente stiamo parlando di 2015 e non 2005. Tra poco parleremo di una novità che è stata presentata questa settimana da Microsoft, che non solo l'ha presentata ma l'ha proprio lanciata sul mercato, un braccialetto mix tra un classico braccialetto fitness e uno smartwatch. Insomma, una roba da mettere al polso per monitorare tutta una serie di funzioni con moltissimi sensori, lanciato a mo' di test negli Stati Uniti senza grandi annunci, è stato quasi una sorpresa, è già andato tutto esaurito, ma approfittiamo del lancio di questo Microsoft Band per parlare di quello che sta succedendo nel settore, nel segmento molto complicato, molto variegato dei cosiddetti wearable devices, quindi tutto ciò che si può indossare spesso e ultimamente al polso. Di questo parleremo tra poco, adesso parliamo di pagamenti digitali. Sapete che già da un po' di tempo ci occupiamo di pagamenti in varie forme. Una delle cose che si stanno affermando, forse è una parola troppo esagerata, comunque si stanno cominciando gradualmente a diffondere, sono le carte con chip NFC, sono carte di credito simili alle tradizionali che però possono essere avvicinate ad un POS, e in questo modo si può effettuare un pagamento senza inserire la carta con il chip, senza fare una strisciata, basta appoggiarla e sfiorare il POS. Bene, la stessa cosa può essere fatta con lo smartphone, perché queste carte possono essere virtualizzate all'interno dello smartphone, che quindi diventa il vero e proprio borsellino elettronico, come si dice da un po' di tempo. Esiste già una proposta, ci sono gli operatori telefonici che stanno facendo, aprendo questo mercato. Esiste già una proposta di cui abbiamo parlato in primavera di Vodafone, esiste un'altra proposta di Poste Mobile con tutto il background dei servizi di Poste, con tutti i milioni di carte di Poste, quindi Poste Pay, Postamat, eccetera eccetera. Questa settimana è stato lanciato un nuovo prodotto da TIM. Ci siamo fatti raccontare di che cosa si tratta, il prodotto si chiama TIM Smart Pay. siamo fatti raccontare di che cosa si tratta da Sergio Cozzolino, che è responsabile marketing sviluppo servizi innovativi di Telecom Italia. È una carta prepagata sviluppata in collaborazione con Banca Intesa e con Visa, che consente a tutti i clienti TIM, anche non possessori di un conto corrente bancario con Banca Intesa, di poter avere uno strumento di pagamento virtualizzabile all'interno del cellulare e consente i pagamenti sia quelli tradizionali su internet, nonché quelli di prossimità sui post abilitati al pagamento NFC. Questa stessa carta ha anche una sua corrispettiva componente plastica, quindi nella modalità tradizionale, che è possibile richiedere laddove il cliente voglia averne anche una sua versione plastica, e quindi rientra a tutti gli effetti con uno strumento di pagamento tradizionale, ecco. Quindi alle due componenti, quella da mobile, quindi da telefonino, e quella fisica richiedibile appunto alla banca. Cozzolino, le faccio una domanda sulla rete di accettazione, perché naturalmente stiamo parlando di una tecnologia, io ho in mano uno smartphone con tecnologia NFC che ha virtualizzata una carta di credito al suo interno con un'applicazione, io posso andare appunto ad una cassa abilitata, ma è necessario che il POS di quella cassa sia abilitato alla tecnologia NFC senza fili. Si stanno diffondendo, ce ne sono già circa 200.000 in Italia, ma stiamo parlando ancora di una percentuale bassa rispetto al parco di POS che ci sono in Italia, e comunque si stanno diffondendo anche i POS tradizionali sempre più. Che tipo di notizie avete? Perché se vogliamo che si diffonda questa tecnologia, se vogliamo che si diffonda il borsellino elettronico nell'applicazione dello smartphone, deve esserci anche una rete di accettazione adeguata e diffusa, capillare. Ecco, questo è uno dei fattori della collaborazione con Intesa e con Visa, nel senso che la prospettiva, almeno non è un compito di Telecom quello di diffondere gli strumenti di accettazione rispetto prevalentemente al sistema bancario. Se c'è un impegno forte da parte di Banca Intesa, che opera anche tramite Setefi, che è una società del gruppo di Banca Intesa, quindi va ricordato che Setefi è uno dei principali acquirer sul mercato italiano ed ha un ruolo fondamentale nella diffusione di questi strumenti. Quindi il tema del contactless sta diventando, ahimè, in Italia come Cenerentola per ultimi, ma sta diventando una realtà in tanti altri paesi sia europei che internazionali. La presenza di queste soluzioni sui terminali mobili non fa altro che aumentarne la penetrazione, quindi ci auspichiamo che il processo continui e probabilmente venga anche accelerato da una maggiore interesse da parte anche dei clienti finali che vogliono pagare. Quindi sono già Banca Intesa, oggi parla di un trend che raggiungerà i 250.000 apparati da qui a fine anno, quindi è un trend crescente e sicuramente facciamo un doppio salto carpiato, nel senso che i nostri clienti, cioè i clienti bancari che erano abituati alle carte magnetiche, oggi si ritrovano direttamente ad utilizzare quelle contactless. Torneremo sicuramente a parlare di pagamenti digitali, perché questo è un settore in forte fermento, stanno succedendo molte cose, tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno arriveranno altri servizi, non solo con tecnologia NFC, anche con altre tecnologie, e poi c'è uno scenario globale che vede soprattutto Mastercard e Visa, non solo, ma in modo particolare queste due grandi entità del mondo dei pagamenti, impegnate per di fatto creare una tecnologia alternativa a quella che si utilizza oggi, che è basata sulla SIM di un operatore telefonico, dove c'è inserito un elemento sicuro che garantisce la sicurezza delle transazioni. Allora, Visa e Mastercard stanno lavorando ad una tecnologia che arriverà presto sul mercato anche in Italia, che bypassa l'operatore, quindi uno potrà virtualizzare una carta, fare la stessa cosa che abbiamo raccontato poco fa, anche senza essere legato ad un operatore, mentre oggi soprattutto in Italia c'è una piattaforma tecnologica condivisa tra gli operatori, realizzata da SIA, che è una grande entità nel mondo dei pagamenti, che si basa proprio sulla SIM, su questo elemento sicuro, sul Secure Element. Ma già Apple ha deciso di mettere un Secure Element dentro al telefono, dentro l'iPhone, e fregarsene dell'operatore telefonico. Vedremo che cosa succederà Un mercato estremamente competitivo, si può creare un modello di business prendendo pochissimi, meno di un centesimo, adesso stiamo parlando di alcuni centesimi da tutte le transazioni, perché stiamo parlando di milioni e miliardi di transazioni in tutto il mondo. Poi ci sono anche aspetti regolamentari, non ultimo una direttiva europea che dovrebbe abbassare le commissioni sulle transazioni finanziarie digitali, ma di questo potremo parlare prossimamente quando entrerà in vigore questa novità. Adesso parliamo di Microsoft Band, questa novità lanciata questa settimana, e lo facciamo con Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori anche in questa nuova collocazione oraria. Allora, noi questa settimana abbiamo scelto di parlare di wearable devices, si dice in termine tecnico o all'americana, tecnologia indossabile. Da molto tempo ne parliamo, però notiamo che sul mercato ancora non si è affermato nulla. Abbiamo commentato annunci di smartwatch, quindi orologi intelligenti, molti sono già arrivati, altri arriveranno. Abbiamo commentato e descritto e raccontato come funzionano i braccialetti per monitorare la nostra attività fisica, la nostra attività sportiva. È un mercato molto in estremo fermento. Questa settimana è stato annunciato da Microsoft il Microsoft Band. È un braccialetto, ma alcuni dicono che è anche una specie di smartwatch. Insomma, che cos'è questo strumento che è stato appena lanciato negli Stati Uniti, per il momento solo negli Stati Uniti, da Microsoft? Il nome lo dice chiaramente, Band è qualcosa che assomiglia di più dal punto di vista almeno morfologico a un braccialetto, largo poco più di un centimetro e si avvolge attorno al polso. Offre molti elementi di novità e molte conferme. Le conferme riguardano il fatto che le funzioni sono un po' quelle che abbiamo già visto fare di fatto agli smartwatch, quindi si collegano con lo smartphone e permettono un'interazione con lo stesso, per esempio di vedere i messaggi, gli sms, di poter interagire con il proprio calendario, di poter dare anche dei comandi vocali con Cortana, che è l'assistente vocale di casa Microsoft, e quindi queste sono cose che di fatto in qualche modo avevamo già visto, anche se in un form factor un po' diverso, quindi quello più simile all'orologio. E poi delle cose nuove, molto interessanti. Quella che personalmente mi ha colpito di più è il fatto che ha due modalità per essere indossato questo Microsoft Band, cioè uno più tradizionale, quindi col display nella parte esterna del polso, nella parte alta del polso, oppure ruotato di 180 gradi col display nella parte interna del polso. In realtà, essendo il display lungo questa band, quindi lungo questo braccialetto stretto, lungo e basso, diciamo così, molto rettangolare, il display si legge molto meglio nella modalità nella parte interna del polso, cioè invece di girare il braccio verso l'alto praticamente per guardare il quadrante come facciamo sempre con un orologio, in questo caso si volta l'interno del polso verso il viso, con un movimento anche, se vogliamo, più naturale, soprattutto se si sta facendo attività fisica. Quando vediamo un runner per strada che consulta i suoi dati sul suo orologio GPS, generalmente fa correndo un movimento molto poco naturale, cioè allarga il gomito verso l'esterno per guardare l'orologio. E in questo caso, effettivamente, soprattutto quando si fa attività fisica o nella vita, quando si è seduti alla scrivania, in qualsiasi momento, guardare l'interno del polso è una cosa molto più naturale. E questa è una novità che, devo dire, viene introdotta effettivamente da questo nuovo modello di Microsoft. Sì, sicuramente è molto interessante anche da questo punto di vista. Stiamo parlando di uno strumento che è una sorta di via di mezzo tra uno smartwatch, perché non si può dire che sia un orologio, così come lo abbiamo visto in altre forme e da altri produttori, o come lo vedremo ad esempio il prossimo anno con Apple nella forma dell'Apple Watch. non è nemmeno un braccialetto stupido, tra virgolette, che ha solo dei sensori e che non ha nessun tipo di display. Sostanzialmente a che cosa mi serve, oltre che per dialogare con lo smartphone, come ci hai ricordato? Insomma, la parte più fitness di questa, di questo strumento, a cosa serve? Beh, può registrare tutti i nostri movimenti con il GPS integrato, insieme a una serie di altri sensori, anche il battito cardiaco, e quindi è un vero orologio fitness, però in un form factor da smart band o da sport band, come vengono chiamati, quindi proprio quegli accessori per l'attività sportiva. Quindi può essere interpretato sia per un utilizzo sporadico solo quando si fa sport, sia un po' più come life tracker e compagno di vita per tutto il giorno. Certo, è un apparecchio complesso che, quando viene attivato il GPS, ha un'autonomia di qualche ora, a GPS spento ha un'autonomia di 2 giorni, quindi è comunque un altro apparecchio da ricaricare se lo si vuole utilizzare continuamente, ma questo sappiamo che è un problema comune a tutti, anche gli smartwatch. Anche recentemente Apple ha confermato che l'Apple Watch, quando uscirà il prossimo anno, sarà comunque un apparecchio che andrà ricaricato tutte le sere, per esempio, e questo non è di certo una cosa comoda, è uno dei limiti. L'interpretazione di Microsoft ha altri 2 aspetti nuovi, a mio avviso. Innanzitutto, da un produttore come Microsoft, che sta dietro a uno degli ecosistemi smartphone, che è Windows Phone, ci si sarebbe atteso magari un prodotto specifico, capace di interfacciarsi solo col proprio ecosistema. Invece no, perché Microsoft Band funziona ovviamente con Windows Phone, ma funziona anche con iOS e con Android, quindi è multipiattaforma, nativamente multipiattaforma, e questa è una bella notizia, anche perché molti sono fan di un sistema operativo, altri passano, a seconda dei telefoni che escono, da un sistema operativo all'altro, vogliono sentirsi liberi di farlo e non per questo perdendo la compatibilità dei propri accessori. Quindi questa è innanzitutto una bella notizia. E l'altra cosa è la sensoristica che è inserita in questo apparecchio, è veramente completa, addirittura anche col sensore di ultravioletti, oltre che il battito cardiaco, l'accelerometro, un sensore per lo stress che sarà da identificare come funziona, ma comunque è veramente un apparecchio completo, con un prezzo che è annunciato in questo momento negli Stati Uniti $199, non sappiamo come verrà tradotto e quando mai questo prodotto arriverà da noi, ma è comunque un prezzo che sembra tutto sommato perequato al numero di sensori che ci sono e accessibile. Sì, vedremo quando arriverà sul mercato anche in Europa. Per il momento questo prodotto, che è sostanzialmente una sorta di test per capire come reagisce e come reagirà il mercato, è andato tutto esaurito negli Stati Uniti. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, questo è il nostro nuovo orario, 2 sono gli appuntamenti, quindi ci siamo spostati dal sabato pomeriggio al venerdì sera tra le 22 e le 23 e anche domenica tra le 13, dopo il giornale radio delle 13, fino alle 13.30. Naturalmente ci trovate anche in podcast, potete abbonarvi gratuitamente al nostro sistema podcast attraverso varie piattaforme, iTunes, ma poi dipende anche da che smartphone avete, se lo fate dal computer, dal tablet, dallo smartphone, ci sono varie possibilità, ve la consigliamo sicuramente. Il podcast, la radio on demand, che potete ascoltare quando volete, è una delle modalità con cui si ascolterà sempre più la radio nel futuro. C'è anche un altro trend che rimane nell'ambito broadcast, quindi antenne che trasmettono la radio in diretta, che è la digital radio. Di digital radio parleremo la prossima settimana, perché la prossima settimana Roma ospiterà il World Dub Forum, il forum internazionale della radio digitale. Anche in Italia e anche Radio 24 trasmette su una rete piuttosto capillare in modalità digitale. La prossima settimana faremo il punto della situazione, vi spiegheremo a che punto sono i nostri impianti in tutta Italia, non solo di Radio 24, e vi racconteremo anche come si fa a ricevere la digital radio. Ci vogliono dei sintonizzatori di nuova generazione che possono intercettare e ricevere i segnali digitali. Ci fermiamo per qualche minuto, riprendiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Stiamo parlando di braccialetti elettronici, ma non quelli per i carcerati, quelli che potremmo metterci al braccio per analizzare come ci comportiamo fisicamente durante la giornata, ma non solo. Stiamo parlando di prodotti che si possono avvicinare ad esempio ai più classici smartwatch, in generale oggetti indossabili attorno al polso. Ne stiamo vedendo moltissimi e questa settimana è entrato nel mercato anche Microsoft. C'è molta attesa per l'Apple Watch, quindi l'orologio di Apple che arriverà il prossimo anno. Insomma, questo è un segmento in fermento, stanno succedendo molte cose e molto probabilmente il mercato, anzi sicuramente il mercato, deve ancora trovare una propria forma. C'è chi dice che sia più un desiderio dei produttori che dei consumatori la mania degli smartwatch, dei braccialetti di vario genere. Comunque è con noi Gianfranco Giardini, il direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, facciamo un po' un quadro del mercato in estrema sintesi, si parte da e si arriva dove? Potremmo parlare per ore perché effettivamente il mercato è estremamente frammentato, ci sono tantissime forme e tantissime interpretazioni. Comunque facciamo un po' il punto della situazione. Allora partiamo dai braccialetti, appunto, come dicevi, quelli senza display, che sono dei life tracker, normalmente solo con un accelerometro, quindi dai movimenti che facciamo loro possono dedurre se stiamo dormendo, dormendo bene, se stiamo correndo, se stiamo camminando, ma è una deduzione, attenzione, quindi la precisione non è proprio eccezionale, e sono in grado di comunicare magari via Bluetooth con uno smartphone per scaricare i dati, per scaricare i propri dati. È un po' un oggetto più accurato di uno smartphone perché sta sul polso e quindi prende il movimento del braccio, mentre uno smartphone può essere appoggiato sul tavolo, però sono funzioni che già abbiamo visto negli smartphone, tutti ormai hanno il sensore, l'accelerometro e delle applicazioni specifiche, sistema operativo per sistema operativo, per tracciare il movimento, e quindi non è una cosa particolarmente evoluta. Tra l'altro è un mercato che presto diventerà molto economico, molto commodity, avremo prodotti a prezzi anche molto bassi su questo fronte. Sì, a proposito di prezzi bassi, possiamo dire pochi euro addirittura. Sì, arriviamo anche alla decina di euro per un prodotto di questo tipo. Poi andando avanti aggiungiamo chiaramente delle funzioni, il display, quindi questi band che abbiamo di cui abbiamo parlato anche adesso, prima un pochino più stupidi, quindi senza GPS, e che si interfacciano allo smartphone per avere le informazioni del GPS e quindi integrarle in un ecosistema più completo, oppure col GPS integrato, sempre in form factor band, o poi si passa al form factor più da orologio, quindi da smartwatch, a quadrante quadrato o a quadrante circolare. Quindi questo è il panorama. Poi dobbiamo vedere gli usi, perché in realtà qui c'è un'altra tassonomia importante, cioè alcuni sono pensati espressamente per l'attività sportiva, e qui ci metterei dentro anche quegli orologi sportivi che non erano chiamati smartwatch perché non esistevano ancora qualche anno fa questo concetto, ma di fatto erano già tali, che integrano già il GPS e quindi una memoria, la possibilità di tracciare il percorso che stiamo facendo, che vengono usati per attività sportiva correntemente, quindi dai runner, dai ciclisti, da chi fa trekking, anche dai golfisti per esempio, piuttosto che altri sportivi. Ecco, questi sono apparecchi che già esistevano, che adesso sono molto perfezionati e adesso sono capaci di interfacciarsi con lo smartphone, cosa che prima non facevano e lo fanno direttamente, e che sono pensati per un utilizzo solo durante l'attività sportiva. E quindi questo è un capitolo importante, ma che è un capitolo anche molto verticale, tant'è vero che sono sviluppati addirittura apparecchi dei vari produttori, Garmin, TomTom, eccetera eccetera, verticali per la singola disciplina sportiva, perché l'applicazione che l'amatore di quello sport richiede è molto particolare. Man mano che ci spostiamo verso lo sportivo più casual, andiamo verso apparecchi che sono meno verticali, ma anch'essi pensati per l'attività sportiva, e qui sono gli sport band generalmente, per poi andare verso il life tracker, quindi quelli che vanno indossati 24 ore su 24. E anche qui è l'utente che dovrà scegliere. Vuole farsi tracciare tutta la sua vita 24 ore su 24 o hai soltanto intenzione di tracciare volontariamente la sua attività sportiva? Sono vocazioni molto diverse. Il mercato non ha ancora scelto qual è la vocazione di successo e io sono molto curioso di vedere se questo Natale sarà un Natale dove il registratore di cassa ci dirà qual è il form factor di successo, perché noi possiamo stare a discettare 100 anni, ma è l'utente che deve scegliere. E quindi se vinceranno quelli che semplicemente vogliono tracciare la propria attività sportiva o quelli che vogliono sapere nelle 24 ore cosa hanno fatto. Eh sì, vedremo quello che succederà. Sicuramente una possibilità nei prossimi anni sarà quella di avere uno strumento molto leggero, molto indossabile e simile in tutte le sue forme, e la differenza anche nella specializzazione verrà fatta dalle applicazioni che noi abbiamo, l'abbiamo già capito, dove? Sullo smartphone. Assolutamente sì, non a caso i tre principali produttori di sistemi operativi per smartphone hanno lanciato anche proprio in queste ore ognuno la propria soluzione praticamente centralizzare tutti i dati provenienti dalla sensoristica indossata. Quindi noi indosseremo tutti questi apparecchi e per Android finirà tutto in Google Fit, che è la nuova applicazione che è stata annunciata proprio in questi giorni. Per iOS, quindi per Apple, già finisce tutto o dovrà finire man mano che i prodotti diventeranno compatibili nell'app Salute, mentre per Microsoft nell'app Health, che è quella appunto che è stata presentata in correlazione con il Microsoft Band. Gianfranco, grazie e a presto. Grazie mille. Questa sera stiamo parlando di molte cose che girano attorno alle applicazioni, agli smartphone, quella che molti definiscono smartphone economy oppure app economy, un vero e proprio settore che negli ultimi anni sta esplodendo. Ci sono milioni di sviluppatori, milioni di società che hanno creato la propria applicazione magari su servizi che prima non richiedevano questa estensione, e molte altre invece stanno nascendo proprio da zero grazie alle possibilità che sono pressoché infinite, poi in rapporto alla fantasia che abbiamo che ci danno gli smartphone. Allora, sempre a proposito di questo, è stata lanciata questa settimana da Milano un'applicazione che mi dicono essere stata downloadata così tante volte che i sistemi sono andati in crash, quindi probabilmente la troverete funzionante nei prossimi giorni. Si chiama Parkey, dove Key sta per chiave ed è la chiave per il parcheggio. Sostanzialmente è un'applicazione con la quale è possibile entrare e aprire la sbarra di un parcheggio di un'auto rimessa magari in una città, lasciare la macchina parcheggiata, pagare il parcheggio sempre attraverso l'applicazione e riaprire la sbarra quando si esce, si può anche prenotare. Allora, va detto che si basa su una tecnologia di cui abbiamo parlato recentemente ed è sicuramente una tecnologia che sta esplodendo in questi mesi. Ne abbiamo parlato in primavera e poco dopo la primavera abbiamo visto moltissimi annunci basati sulla tecnologia iBeacon, che si basa su la nuova versione Bluetooth Low Energy, a bassa emissione di energia, un sistema che comunica con il nostro smartphone una posizione o qualsiasi altra tipologia di informazione. Sostanzialmente l'iBeacon è una piccola antennina Bluetooth che dice al nostro smartphone qualche cosa. In questo caso specifico viene utilizzata per aprire, chiudere e abilitare il pagamento di un parcheggio. Ne abbiamo parlato con Alex Pallotti, che è l'amministratore e uno dei fondatori di Parkey, un servizio che parte da Milano ed è stato proprio annunciato questa settimana. Parkey è un'applicazione mobile per iPhone, per iOS e Android, che è basata su gli iBeacon e il funzionamento del Bluetooth 4.0. L'applicazione è molto semplice, in apertura dopo la registrazione ci dà la funzione Around Me, quindi mi dice qual è il parcheggio più vicino a me e mi porta a parcheggio grazie al navigatore satellitare. Una volta arrivati all'autorimessa, proprio grazie al dialogo tra gli e-beacon e il Bluetooth 4.0, ho la possibilità di aprire la sbarra all'ingresso del parcheggio, e una volta iniziata la sosta posso monitorare quanto sto spendendo, quanto mi costa la sosta, quanto manca lo scatto dell'ora successiva, i servizi che ho prenotato, perché posso prenotare anche dei servizi tipo il lavaggio, il cambio gomme, il lavaggio degli interni. Vado a fare le mie commissioni, tornando posso fare il pagamento attraverso il servizio di tokenizzazione, quindi con carta di credito, e mi genera il tasto per uscire dall'autorimessa, quindi riprendo la mia macchina, pigio un tasto ed esco dall'autorimessa, sempre attraverso il dialogo con i beacon e Bluetooth 4.0. Esiste un'altra possibilità, che è quella della prenotazione del posto auto. Quindi se so che devo andare fra 3 giorni in aeroporto piuttosto che stasera al ristorante, posso vedere che autorimesse ci sono in zona e prenotarmi il posto auto. E perché no confrontare le tariffe di vari parcheggi in zona, e quella più conveniente bloccarla, e ho 80 minuti dall'orario previsto d'arrivo per presentarmi in autorimessa con funzionamento uguale, identico a quello di prima. Questo servizio è un servizio che funziona con le autorimesse, quindi stiamo parlando di parcheggi nelle autorimesse nelle grandi città, non di parcheggi quelli, diciamo, che facciamo per strada sulle strisce blu. No, fare i parcheggi in strada ci sono delle difficoltà a livello hardware, perché bisogna installare dei lettori sostanzialmente in strada che dicano se il posto è libero o occupato. È un servizio che può essere fatto sicuramente in futuro. C'è bisogno di un forte investimento a livello economico, e ovviamente non ci può essere la possibilità di prenotare quel posto, perché è evidente che se io attraverso uno smartphone vedo che c'ho un posto libero, non posso impedire a qualcuno che arriva prima di me di parcheggiare. Però è un servizio che sicuramente può essere implementato. Sì, in questo caso i costi di infrastruttura sono sicuramente importanti. Che cosa è necessario che venga installato all'interno dell'autorimessa? Molte autorimesse oramai hanno dei sistemi automatizzati, per cui quando entro pigio un bottone, ricevo un biglietto e mi si apre la sbarra. Nel vostro caso tutto avviene tramite smartphone. Che cosa è necessario installare? È necessario installare un nostro apparato tecnologico contenente fondamentalmente un e-beacon, che però è stato sviluppato a livello software in maniera assolutamente sicura. In Germania ha ottenuto delle certificazioni di sicurezza di primo livello, che sono addirittura superiori ai livelli di sicurezza sulle transazioni bancarie. Ricordo che l'iBeacon, ne abbiamo già parlato, 2024, è questa tecnologia basata sul Bluetooth, e sostanzialmente è un sistema di comunicazione tra un sensore, che nel vostro caso viene posizionato vicino alla sbarra del parcheggio che si apre, e il mio smartphone. Fondamentalmente funziona come un interruttore, cioè il mio smartphone dialoga con l'iBeacon, e questo in accesso mi dà un tipo di informazione, in uscita, una volta che io ho pagato, funziona come un interruttore, schiaccio il bottone ed esco. È esattamente così. Le beacon ci semplicemente dà conferma che l'auto è entrata, che l'auto è uscita. Il segreto di tutto funzionamento è in carico allo smartphone dell'utente. Quindi se io sono nei limiti per l'ingresso validi, ho un tasto sull'app che mi permette di entrare. Esauriti quei termini mi sparisce il tasto, devo fare un'altra prenotazione, altrimenti non entro. Stessa cosa in uscita. Io pago e ho una validità di 3 ore della sosta. Dopo le 3 ore mi sparisce il tasto per l'uscita e quindi devo rifare un pagamento. Le beacon non fa altro che ricevere questa informazione. Tra l'altro, col sistema appunto che abbiamo brevettato e blindato in esclusiva mondiale nel mondo parcheggi, questi sensori, questi iBeacon, vengono auto-aggiornati ogni volta che c'è una transazione, quindi sono impenetrabili, nessuno può entrare, e i livelli di sicurezza sono ancora superiori proprio per la mole di informazioni che noi abbiamo degli utenti. In questo momento, quando un utente entra in un'autorimessa, il titolare dell'autorimessa forse sa la targa. In questo caso noi abbiamo nome, cognome, carta di credito, indirizzo, la targa dell'auto, abbiamo una serie di informazioni che vanno ben oltre, quindi anche questo va a aumentare la sicurezza da parte del titolare dell'autorimessa. Attualmente quante autorimesse sono abilitate con questo sistema? Stiate partendo da Milano, giusto? In questo momento stiamo partendo da Milano, abbiamo fatto una convenzione con Confcommercio APA, che è l'associazione di rappresentanza delle autorimesse a Milano, e in un sol colpo abbiamo avuto la disponibilità di 6.000 posti auto nella città di Milano. Contiamo di arrivare a gestire un 60.000 nel giro di 6 mesi, in vista di Expo, che vadano a coprire Milano Interland, la zona aeroportuaria e la zona di esposizione delle fiere. Tra l'altro Expo è stato fatto un bando pochi mesi fa che è andato deserto per la gestione dei parcheggi intorno alla fiera, ed era richiesto da bando che venisse messo in rete quelle informazioni sulle disponibilità, quindi noi abbiamo fatto un passo oltre, abbiamo già questa disponibilità dei posti. Quindi al prossimo bando uno potrebbe sfruttare la vostra tecnologia? Sì, assolutamente sì. Senti, ti faccio una domanda di scenario che va al di là della vostra applicazione. Tu prima mi dicevi che effettivamente, se noi volessimo estendere questa esperienza di pagamento del parcheggio in un contesto un po' più tradizionale, un po' più diffuso, cioè il parcheggio stradale sulle strisce blu normali, quelle insomma che ci sono ormai in tutte le città, dovremmo infrastrutturare, cioè avremmo dei costi di infrastruttura un po' più, sicuramente più elevati. Però facci capire che cosa potrebbe succedere nei prossimi anni e come potrebbero trasformarsi questi parcheggi nei prossimi anni, come potrebbero diventare intelligenti, diciamo così. Allora, l'esempio più classico abbiamo a San Francisco, che è gestito da ParkNow. Sostanzialmente fa un servizio simile al nostro, per quanto non abbia la tecnologia Bluetooth, però sostanzialmente recandomi alla colonnina posso pagare attraverso il telefono, dialogando con la colonnina. Quello credo che possa essere, in Italia ci sono già degli esperimenti in alcune piccole città, credo che quello possa essere il primo passo futuro, quindi andare a dialogare con delle colonnine intelligenti. Quindi mi presento col telefono, che sia NFC, che sia Bluetooth, che sia con gli iBeacon, e pagare direttamente alla colonnina della sosta, possibilmente controllando in remoto la sosta, perché quando noi parcheggiamo prima magari lasciamo giù la macchina, paghiamo per un'ora la sosta, poi dal dentista va lungo e rischiamo di pigliare la multa. Invece così facendo possiamo in remoto allungare la sosta. Ci sono delle problematiche che sono date sostanzialmente anche lì, sempre dall'hardware, che in questo caso dovrebbe essere fornito alla municipalità per controllare le soste. Però è un passo dovuto, perché onestamente il gratta e sosta, la colonnina è una cosa ormai obsoleta. Ci sono degli esempi nella stessa, in Europa, a Nizza hanno fatto questo progetto con la partnership di Cisco System ed è stato tutto messo in rete. È evidente dei vantaggi per la mobilità enormi, posso evitare delle zone congestionate. Perché no, studiare degli algoritmi attraverso i quali, se una zona è congestionata, il concetto borsistico, quindi quando una zona è congestionata il parcheggio, il costo del parcheggio mi sale e funziona da deterrente per continuare a congestionare quella zona, spingendone magari altre limitrofe, abbassando i costi. Quindi è un forte strumento di leva per la gestione della mobilità cittadina. Quello della mobilità cittadina in tutte le sue versioni, e il parcheggio è una delle versioni, è sicuramente uno dei settori nei quali vedremo cose molto interessanti nei prossimi anni, quindi da tenere sotto controllo. Effettivamente ci sono altre proposte, alcune idee anche di aziende europee per annegare nell'asfalto dei sensori e quindi rendere intelligenti anche i parcheggi classici normali con le strisce blu. È vero che oggi in alcune città, anche in Italia, si può pagare con un SMS, questa è una possibilità che esiste già in alcune città, ma in questo caso stiamo parlando di cose un po' più evolute. Se esiste un sensore annegato nell'asfalto, io potrei sapere se questo sensore è poi collegato ad una rete, e da qui l'importanza dell'infrastruttura della rete a banda larga. Potrei sapere se è libero o occupato, e poi di conseguenza, una volta che io l'ho occupato, anche pagare. Molto bene, ci fermiamo per qualche minuto, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco parleremo di Voice over IP. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Questa è l'ultima parte di 2024, vi ricordo che da questa settimana 2024 ha cambiato orario, molti di voi se ne saranno accorti ascoltandoci in onda, il venerdì tra le 22 e le 23, la domenica andiamo in onda tra le 13.05 dopo GR24 fino alle 13.30. Naturalmente ci trovate in podcast e vi ricordo che nella versione podcast di 2024 trovate tutte le nostre interviste in versione integrale, quindi alcune cose non vanno in onda normalmente perché magari l'intervista è un po' troppo lunga, ma nella nostra versione podcast trovate le interviste in versione integrale. Dal prossimo anno si potranno effettuare telefonate anche tramite WhatsApp. La tecnologia è molto semplice e affermata da tanti anni, si può telefonare tramite internet in buona qualità, anzi a volte con una qualità superiore alle telefonate tradizionali. Allora, recentemente sono andato a SMAO, ho passato 3 giorni nell'edizione milanese di SMAO e ho visto tantissime offerte di Voice over IP, e quindi fondamentalmente, sostanzialmente, telefonia via internet. E visto che stiamo parlando di una tecnologia che è vecchia di 15-20 anni, e già 10 anni fa, a 2024, parlavamo della possibilità di utilizzare internet come unico canale di comunicazione sul quale far transitare anche la telefonia, mi sono un po' stupito, ho detto ma come? Ne parlavamo già 10 anni fa e ancora oggi molte aziende non sono passate alla tecnologia VoIP. Allora, mi sono fatto spiegare come mai il mercato è così lento, ma del resto sappiamo che molte aziende, purtroppo molte aziende italiane, sono un po' lente nell'adozione della tecnologia, e questo, anche se a molti non sembra, è proprio un problema di competitività. Le aziende che innovano e sono più attente all'evoluzione tecnologica sono sicuramente più competitive. Poi naturalmente non è l'innovazione tecnologica non è l'unica leva, bisogna anche innovare prodotti, servizi, bisogna fare ben altro, però sicuramente adeguare il proprio modo di lavorare alle tecnologie, o adeguare le tecnologie al modo di lavorare, è sicuramente un punto di partenza. Simone Terreni, VoIP Voice. Sì, perché in Italia fino adesso sono venduti tantissimi sistemi IP, però abbiamo continuato a mantenerli attaccati alle linee vecchie analogiche. Il problema è sempre l'ultimo miglio, perché nell'ultimo miglio la qualità della connettività è sempre stata difficile da erogare. Negli ultimi tempi è diventata innanzitutto più stabile, sono uscite nuove tipologie di servizi e finalmente il VoIP è efficace, perché basta un millisecondo di ritardo e la voce va a farsi benedire. Invece in questo momento la qualità è paragonabile, se non a volte, perché ci sono dei protocolli nettamente superiori rispetto anche alla telefonia tradizionale, che ti permettono di avere una qualità identica a quella tradizionale. Quindi la diffusione della connettività è un elemento importante. La diffusione della connettività, la diffusione di avere dei sistemi che ti permettono di gestire le telefonate in maniera diversa, quindi si parla proprio di veri e propri programmi software, e poi soprattutto una grande fascia di persone che di mestiere hanno fatto fino all'altro giorno i system integrator per la parte informatica, le reti, che si stanno invece gettando per la parte di telefonia, perché diventano un unico referente sia di dati che di fonia. Certo, perché stiamo parlando di software fondamentalmente. Esatto. E questo crea anche dei problemi di sicurezza, forse. La sicurezza diventa fondamentale, perché sia se hai un sistema allacciato a un mondo VoIP, sia che sei alla linea tradizionale, i centralini ormai sono IP, quindi devono essere protetti come fosse una rete interna, altrimenti ti entrano dentro e bucano. Però insomma, la professionalità delle persone in questo momento si sta evolvendo tantissimo e la sicurezza sta diventando sempre più efficace. Stessa domanda l'abbiamo fatta anche a Marcello Guido Levi di 3CX Italia. Perché da tanto tempo parliamo di VoIP, ma ancora sono tantissime le aziende che non hanno capito che è possibile avere un'unica infrastruttura internet e si fa tutto lì, anche la telefonia? Beh, perché il VoIP oramai è diventata il mezzo in cui tutte le telefonate viaggiano. L'utente si sta rendendo conto che, a parte le ultime decine di metri del doppino di rame che gli entra fisicamente in casa, tutto il resto è già VoIP. E se ne accorge con 20 anni di ritardo. Con 20 anni di ritardo, per tanti motivi, non tutti imputabili solo all'Italia, ma perché magari certe abitudini sono dure a morire. E quindi non è più vista come il gettarsi nel futuro, nell'incognita, ma come qualcosa che è affidabile e soprattutto economico. Ma quanto si risparmia? Dipende molto dalla realtà e dai volumi di traffico, ma ci possono essere, si può arrivare a spendere il 10% di quello che si spendeva, quello che si spende. Di un decimo di quella spesa telefonica. Se si parla di grosse aziende che magari hanno connessioni cosiddette primarie, quelle da 30 linee parallele, e passano a connessioni totalmente VoIP, che vuol dire una DSL, si fa presto a pensare di solo canone, a parte il traffico, cosa si risparmia. Per un ignorante in materia, che cosa fa un centralino VoIP, che quindi non è una macchina, ma è un software installato su un server, su un computer? Beh, innanzitutto si rinuncia completamente alla necessità di un cablaggio dedicato per i telefoni. Tutto viaggia sulla borchia Ethernet che oggi è già presente in ufficio. Quindi un solo tipologia di borchie e di fili che girano per l'ufficio. Una sola rete, solo internet. Una sola rete, esattamente, le cosiddette pacchetti IP. Poi ci sono, grazie al fatto che si ragiona con dei dispositivi che sono intelligenti, perché il telefono VoIP oggi non è più una tastiera e una cornetta, ma dietro c'è già un processore al quale possono essere insegnate delle cose, i servizi che posso fare su un impianto VoIP sono molti, molti di più rispetto a quelli che erano una volta il classico telefono analogico. Controllare un videocitofono piuttosto che lanciare una videoconferenza e aprire una conference call spingendo un tasto. Tutte rispondere cose, dal computer e non dal telefono. Rinunciare completamente al telefono e avere solo un paio di cuffie wireless e rispondere con un dito. Ecco. Avere il mio interno dall'altra parte del mondo. Interno dall'altra parte del mondo con il quale non ho traffico telefonico quando lo vado a chiamare, perché chiamo e il costo di quella telefonata è annegata nella connessione internet che la mia azienda già paga. Sì, le possibilità sono veramente, veramente notevoli e non è una tecnologia del futuro, è oggi. Beh, quasi del passato, esatto. No, ecco. Però oggi è VoIP. Quante sono le aziende, dal vostro punto di vista, senza andare a fare una statistica precisa, ma giusto per avere un'idea, che ancora non hanno capito e che quindi credono che il VoIP sia una cosa nuova? Credo la stragrande maggioranza. Questo perché il centralino telefonico non è una cosa che si cambia o si mantiene da un anno all'altro, ma magari finché non dà effettivamente problemi si continua con l'esistente, anche perché è un settore molto è cruciale. Se uno resta tagliato fuori dal telefono rischia di avere dei danni rapidi e immediatamente monetizzabili. Quindi l'esigenza di cambiare centralino magari capita una volta ogni 10 anni. No, oggi sarei molto stupito se un'azienda che oggi avesse la necessità di valutare una sostituzione al proprio centralino che sta raggiungendo i suoi limiti di età e di esercizio non prendesse in esame una soluzione VoIP, perché non credo che oggi troverebbe quasi degli installatori che non gliela proporrebbero, anche perché anche solo di costi vivi di hardware si parla di cifre di migliaia e migliaia di euro rispetto alle centinaia di una licenza software. Quindi in un periodo come questo, in cui più che mai si sta attenti ai costi. E pensare che ricordo una puntata proprio con Cisco per parlare di VoIP tanti anni fa, quando il VoIP era una tecnologia emergente che veniva già utilizzata largamente dai grandi operatori telefonici, ma che cominciava ad essere una tecnologia a portata di aziende. Parlo di più di 10 anni fa. E oggi mi accorgo, andando appunto a SMAO, toccando, che è poi uno dei motivi per cui ha senso ancora un appuntamento con la tecnologia sul territorio come SMAO, che offre le tecnologie alle aziende, e chi opera nel mercato si accorge più di noi che stiamo attenti all'ultima evoluzione tecnologica di quanto arretrate siano le aziende italiane, purtroppo. Ne paghiamo poi le conseguenze. Non, naturalmente la competitività di un paese non si misura solo in termini di tecnologia, ma sicuramente oggi la tecnologia copre una buona fetta di questa competitività internazionale delle nostre aziende. E su questo potremmo proseguire per ore e ore e ore, facendo mille considerazioni anche su aziende che non hanno un sito internet. Sì, probabilmente alcune posso anche pensare che non debbano necessariamente averlo, ma ci sono tante aziende che invece potrebbero farci cose con un sito internet. Ma insomma, stiamo parlando proprio di una fetta dell'ABC, poi invece la tecnologia in azienda è ben altra cosa. Come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Vi ricordo che da questa settimana abbiamo cambiato orario di messa in onda, quindi non più il sabato pomeriggio, ma il venerdì sera tra le 22 e le 23, la domenica tra le 13 e le 13:30. Ma naturalmente, come sapete molto bene, visto che voi siete abbonati al servizio podcast, c'è tutto in podcast, e il podcast, anzi, con questa novità arriva prima, perché già dal venerdì sera è disponibile. Noi ci salutiamo, ci risentiamo la prossima settimana. Non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo tra 7 giorni. 2024. 2024. 2024. 31 seconds.